Allora, oggi il nostro approfondimento ci porta a Catania. Leggendo queste fonti emerge una domanda, quasi un'ossessione direi. Come fa una città, schiacciata tra un vulcano e il mare, e distrutta tante volte, non solo a resistere, ma a creare un'identità artistica così, così potente? È la domanda fondamentale per capire Catania. E credo che la risposta si trovi proprio qui, nel suo cuore, la Piazza dell'Uomo. Le fonti sono chiare, è patrimonio UNESCO, un capolavoro di barocco nero. Esatto, un barocco nato però da una catastrofe. Il terremoto del 1693. E da lì un nome chiave, l'architetto Giovanni Battista Vaccarino. Proprio così. È incredibile pensare che la distruzione non sia stata una fine, ma quasi un nuovo inizio, un'opportunità. Hanno preso il materiale della loro sventura, cioè la pietra lavica dell'Etna, La pietra nera. e l'hanno usata per ricostruire. E quel contrasto fortissimo tra la pietra scura, quasi cupa, e la luce del marmo bianco è diventata la firma della città. È vero, è come se avessero deciso di non nascondere la ferita, ma di trasformarla in un'opera d'arte. È un atto di sfida potentissimo. Assolutamente. Non è una città che nasconde le sue cicatrici, le trasforma in gioielli. Questo barocco nero non è solo uno stile, è una filosofia di vita. E al centro di tutto c'è un simbolo stranissimo, quasi surreale, un elefante di pietra lavica. I catanesi lo chiamano l'uliotru. Ah, il liotru. Ma spulciando le fonti non sono riuscito a capire perché proprio questo nome non c'entra nulla con la parola elefante. È un bel mistero. Le fonti ci danno due piste. Una, diciamo, leggendaria e una più scientifica. Ok, sentiamo quella leggendaria. Ci parla di un mago bizantino, un certo Eliodoro. Si diceva che trasformasse le persone in animali e che cavalcasse un elefante magico per i suoi viaggi. Un elefante magico. Proprio così. Eliotru sarebbe insomma una storpiatura popolare del suo nome, Eliodoro. Incredibile, pura magia. E la versione, diciamo, più scientifica. Quella ci porta all'astronomia. Sembra che la statua, con quell'obelisco egizio che Vaccarini ci ha messo sopra, funzionasse come gnomone per una grande meridiana solare. Ah, ecco. E il nome quindi verrebbe da eleotropico, una parola greca che significa che si volge al sole. Quindi da una parte la magia, dall'altra la scienza. Il simbolo perfetto di Catania. Certo. E questo mix di sacro e profano, di leggenda e scienza, lo si ritrova in tutta la piazza. Basta alzare lo sguardo verso la cattedrale di Sant'Agata. Domina tutta la scena. La facciata è sempre di Vaccarini, ma le fonti sottolineano che poggia su fondamenta molto più antiche, addirittura i resti delle terme romane. E dentro c'è la tomba di Vincenzo Bellini. Ma se l'esterno è un trionfo d'arte, il cuore vero della cattedrale è la sua dimensione spirituale. Lì dentro ci sono le reliquie di Sant'Agata. La patrona. Esatto, una giovane martire del III secolo. Per i catanesi non è solo una santa, è la protettrice, l'unica forza che, secondo la fede popolare, può fermare la lava dell'Etna. La sua festa, a febbraio, è un'esperienza travolgente. Una delle più grandi al mondo, ho letto. Sì, blocca la città per giorni, un misto di fede, folklore e qualcosa di unico. Quindi, mettendo insieme i pezzi, la piazza non è solo un monumento da cartolina, è il centro vivo della città, dove storia, arte e devozione si mescolano ogni giorno. E la vita vera, quella quotidiana. Esatto. Da un lato c'è la Porta Oseda, dall'altro, appena dietro la fontana, si sente il rumore, l'odore della pescheria, il mercato del pesce. La vita che pulsa proprio accanto ai monumenti. E questo forse ci porta a un'ultima riflessione. Dimmi. L'elefante, Uliotru, non è un animale siciliano. È un simbolo esotico che viene da lontano. Allora, cosa ci dice sull'identità di Catania la scelta di un simbolo così, così stratificato, che unisce magia, scienza e fede cristiana per rappresentarsi? Bella domanda. Forse ci dice proprio questo, che Catania è, per sua natura, un incrocio, un luogo plasmato da così tante culture che il suo simbolo non poteva che essere qualcosa di altrettanto complesso e, in fondo, misterioso.